del genere. Era un ammasso di ruggine al tubo. La carcassa, che è di ferro, era completamente rugginosa. Dei pulsanti non ne funzionava manco uno, erano tutti incollati. E la radio dentro era completamente rugginosa, cioè i circuiti stampati erano tutti rugginosi. Ma tu hai preso anche questa fottitura di quel negozio che è andato in fallimento, quando già 150 euro tutto, o 200 euro, quanto l'avevi dato? 300 per base. Sono giubilati incollati, è con DS2000, esce che da Napoli, anzi da Benevento. Davvero, aspetta che ha spasso la televisione. Ma io ti ho detto che non era una cosa possibile quella, perché l'avevano messa all'asta e quando sono all'asta non vendono così. All'asta ci devi essere presente, devi fare i rilanci. Come fanno a metterla all'asta e poi vedetelo su internet? Sì, vabbè, ci sono caduto, infatti non ho più comprato niente poi. Ma con il DS2000, la provincia di Benevento, questa fa una barca di soldi allora, e lo sto pagando 700 euro, ha giurito, ma questo va mio. E mi butto, sì, nuova, mi hanno fatto le foto, tutto, evidentemente le foto erano originali perché era sopra un'altra radio, eccetera, provincia del Benevento, non mi ricordo esattamente il paese o la città. Cazzo, mi ha mandato la foto, ha detto va bene, dai ti faccio il bonifico bancario. Mi ha spedito la radio, stesso peso, la scatola uguale, stesso peso, anzi peso c'è, come sono da ritirare le CDA, peso c'è, tutto, contentissimo. Arrivo a casa, già ce l'aveva detto, tu, un mattone. Fiori di una kayak. Un mattone c'era, lettini legati con l'altro, del peso della radio, tutti belli cugnati per riempire la scatola, e buh. Li ho denunciati e mi hanno rimborsato il 50%, mi pare. Però tu hai perso tutto. Quello lì non si è trovato il bastardo. No, mi aveva, siccome io sono assicurato, capito, ho fatto un bonifico bancario assicurato, mi aveva rimborsato direttamente la mia banca, però il 50%. Invece se pagavi con PayPal ti avrebbe rimborsato tutto. Sì, vabbè, ma io non ne ho di quelle cose già, capito? Non ne ho. Io vendo pochissimo. Questa volta ho venduto tutto quello che volevo vendere, basta così. Acquistare faccio bonifici bancari con tanto di ricevuta, fa tutta la mia banca, no? Non ne voglio sapere, capito? E ma ne ho preso tu, a tutti i dini. Un microfono una volta, non mi ricordo se cos'era, che microfono era, QHF. È arrivato e nuovo, dentro la scatola, anche col connettore attaccato. L'ho provato, cazzo ne uscia, provo un'altra radio, ma cosa era dell'Icon della Kenwood? Provo Kenwood, dico Icon, no, della Yaesu era, avevo 9.20, non provo se 9.20 non usciva, metto l'adattatore sul Kenwood non usciva, metto l'adattatore all'Icon non usciva, ha detto cazzo pure l'alimentazione è 8 volte, quindi non c'è bisogno di batteria, vabbè, controlliamo, non si sa mai, altro microfono vuoto, altro vuoto, solo la carcassa. Delinquente, vuoto, mi hanno mandato la carcassa di un microfono, vuoto. No, invece sai cosa faccio Claudio? Marco c'ha il conto in banca, mio figlio. Gli metto i soldi nel suo conto e lui dal telefonino mi fa l'ordine, con PayPal. Così conviene già. No, ma negli Stati Uniti io non compro niente, assolutamente, no. Assolutamente. Già la trovo, trovate la roba bella. Un bel, io ne ho avuto due. Adesso mi ricordo se ho tutte e due uguali. Non c'era una serie una, una serie l'altra, non me lo ricordo, ma c'era Voltaire più due. Mi Giampaolo RC2 e Giampaolo Silvestro Bonane, ma già si ricordano. Cazzo, non siamo un tosciva forte. Ma che non ha da dire. Ehi, quella foto ti ho mandato? Non mi hai detto nulla. La foto che mi hai mandato? Hai detto la foto che mi hai mandato? Sì, Luigi, ho visto quella di Gianni, mi ha mandato a Cimba. Luca Flipper. Ma questo è del microfono? Ma non del mio, no. No, a me non me ne ha mandato, io sono rimasto qua, c'è la foto del 50, ci siamo quasi, e boh. Ma, aspetta, allora, te l'ho mandata esattamente te l'ho mandata, aspetta che guardo l'orario, eccolo qua, alle 9:20. E io, non mi futti a me. Ah, tornando indietro, ce n'è uno alle 11:30, MC50, alle 9:19, sì, sì. Ah, questo è. C'è questo. Ah. Dai, più tre questo è lui. Ehi, apri la foto. E chi uscì? Hai visto che c'è scritto nell'articolo? Capito? Sì, è un affare quello, vedi? A chi serve? Ma questo è tuo, No, lo stanno vendendo. 30 euro. Diciamo che è funzionante. Ed è tutto da rifare, però. E lui scrive che non lo sa se la scheda di preamplificazione è da testare. Capito? Però... ma è una vannuta, capito? Però fai su Brescia, è anche abbastanza messo bene. Sto vedendo i contatti, sono buoni. Va tutti i fili staccati. Ehi, vabbè, le connessioni già. Beh, i fili del coso devono essere qui. Ma già si. Quello già si ripristina. Allora vai a comprarlo, vai a tutti i gusti a darne più tre. Ah, questo è Super Siderick. Super Siderick, la scheda di preamplificazione da testare, ma credo che non funziona, la metto anche sul pacco, è completo, capsule originale, funzionante, il prezzo. Oh, cosa dici? Sì, io gli ho mandato un messaggio così, che ero un po' indeciso, ma detto che è ancora disponibile. Per 30 euro se poi lo mettiamo a posto, una bella verniciatina. Per 30 euro cosa vuoi? Caspita, ma c'è un ottimo microfono. Questo è il Super Siderick, eccetto un ottimo microfono. Mi con quel pace, è 2003B. Deve essere una schioppettata quel microfono. Stai facendo un capolavoro con questo 60, ottimo. Bello. Ok. Avanti! Danilo, ancora c'è? Sì, mi sto aggiustando una fila. Voi continuate a parlare, già vi sto ascoltando. Oh, Lu, quando schiacci l'importante entra in funzione nel pace on the air. Si accende la luce rossa. Sì. No, funziona tutto... ok. E l'unica cosa è quella ventola. Cioè, pensa, all'interno c'è una ventolina con le pale ancora. Ti puoi immaginare? Che funziona a 2:20 tra l'altro. Vabbè, poi vediamo a cosa serve quella. Quando te la do per fare la connessione. Mentre invece quel, vabbè, Piassi, poi c'è Lock Dist, cos'è? Locale distante, cos'è? Tipo un FGI. Esatto. No, mi sembra che è tipo un Mikey Game, mi sa. Vabbè, no, il microfono, quello originale, vabbè, c'è il connettore suo, è diverso. Vabbè, poi vediamo, Adesso lasciamo liberare, poi te la passo e fai quello che ce la fai. Avanti già. Allo. A Biocco. No, non è quando rispondi al telefono. Però mi avete fatto passare la televisione, non comprendo più nulla, sì? Non ti ho già fatto passare. No, per andare sottofondo, se no... non capisco niente, vengo Yuga ma no, non capisco niente, vabbè, intanto è finito il primo tempo. Anche la rettina dell'altoparlante è in ferro, vero? Sì, ho alluminio, ferro. C'è solo quella piccola ammaccaturina, ma quella basta entrarci col dito dall'interno e si riattrezza verso l'esterno. Ma capisato, menino, se non me la fai vedere? Che sto parlando di quell'apparecchio che mi hai fatto vedere qua? Del pace 2013, quello lì. Quello da base. Ne è arrivato un altro, non so se te l'ho mandato. Mi pare di sì, che è un tanto particolare come apparecchio. No, quello è il Comstat, è quello del 23 Mark Shea. Quello è uno, quello è della Fayette, questo è della Pace. Questo è un Pace 23 canali base che ho comprato ieri. Certo. Sì, non mi pare che me l'avevo mandato. Claudio, quale? Quello che c'è nella foto? Sì, quello che c'è nella foto, sì. Nella foto di WhatsApp. L'ho vista, è già carina quella radio. È un po' particolare. Sì, io sto parlando con quella che c'è sotto. Ma adesso con quella lì stai parlando? Sì, con questa sto parlando, allora. Se riesce anche bene. Non pensavo che fossi con quella radio. No, quella che c'è sotto il pace, Inuit CB294 base, 23 canali, microfono MB+5. Ma riesce bene. Ah, chi sei americano, no? Cosa, il pace? Sì, ya. Boh, a Luca bisogna dirlo, me l'ha fatto vedere lui. Lui è americano con la radio, no? No, credo. Forse italiano. Non me lo ricordo com'è il Pace. Poi si chiama Pace, così è. No, Pace, ma Pace sono gli indiani. Pace. Pace. Pace bene. Pace DX2003B. Italiano. L'apparecchio che non brea mai. L'apparecchio? Ah, no, questo, il Cobra. L'apparecchio che? Che non brea mai, che non bisticcia mai. Pace bene, fratelli. Io. Pace. Quello è veicolare già. Il Cobra, sono indeciso se prendermi quello che c'ha Giulio. Non lo so. Che apparecchio c'ha Giulio? Il Cobra base. Quello che sembra una console. Ma è bella, ma c'è solo là che ce l'hai davanti, gli strumenti li vedi tutti, è molto bella come la. Io l'ho avuta. Cavagala. Andare, vedi tu. A me sinceramente quella non è che piace tanto come estetica, però parlo di me. Magari a te piace. Beh, io l'ho avuta, non è brutta. È fatta in un modo particolare, in vita ci devono essere anche particolari. Poi sono tutti uguali, ce n'è anche più brutte di quella esteticamente, però hanno un bel funzionamento. Non lo so, mi stavo girando un po' con l'altro telefono alla caccia di un Simba, però in Italia. Ecco un attimo! Va. Dani, mentre tu c'hai sempre quel Galaxy, no? Sì, sempre quello riccio. Vabbè, non me lo ricordo. Mandami il prezzo su WhatsApp. Sapete ancora, intanto, vieni di chi ci dirammi che hai recuperato un compagno più nuda. Se prendo il Galaxy già, ti faccio sentire come esce di radio con me. Ti leggi le dita. Ma con qualsiasi microfono, anche con la MB+5. Dai. Oh, Dani. Sì, l'ho visto. L'ho visto. Gappa. Va bene. Stavo scrivendo e mi sono ascoltato anche i messaggi che avevo. Ehi. Ma è nuovo, ma buone condizioni. Com'è la foto che ti ho mandato? È integra, in poche parole. No, non c'ha niente, è intatta. C'ha gli anni di usura sui, però è perfetta. Ah, è vero, già mi avevi mandato la foto, già l'ho vista. Sì, è buona. Ottima. Ehi, grazie già dell'info, adesso poi mi metto in contatto con quella persona, vedo un po'. Guarda cosa mi sto divertendo a fare, guarda. Oggi vedi. Oggi tutti siamo belli, cazzo. Ah, tutti i pomelli, sai, tutte queste cose. Sei Dani con la busta, cos'è? Oia, Gianni. Cagina chiamala via, cazzo. C'è mia moglie. Chiamala un po' la vita. Avevi liberato tutto, avevi messo tutto in ordine, è così bella quella stanza. Adesso ce n'è di più di prima. Adesso dopo un po' ti verrà al camera, ti vedi tutto e ti rimetti tutti gli apparecchi radioamatoriali. L'avevi già fatto. Cazzo, che malattia, per carità. Si è spaventata. L'altro giorno si è alzata, poverina. Non ci posso credere. Ma tutte queste radio l'ho detto, guarda, macchine formate, vedono, vai, te le comprate. Cazzo, questo come esce? Ho cambiato apparato, quando mi avete chiamato in bagno non potevo rispondere. Come esce questo qua? Una bomba. Va bene, già, va bene. Allora, ma questo è il Cobra. Questo qua è il Cobra con ZG, quello che vende Fusaro, però ho modificato la meta. Va bene, va bene. Rimane il fatto che il numero uno è sempre il Galaxy. Vabbè, lo so. E infatti pigliati il Galaxy così non sbaglio. Galaxy com'è rulla, Con la voce che c'ho, con l'MB5 mio, con questo, o con l'altro, questi due modificati che ho, quello che mi hai fatto avere tu, o quello di Gigi, rulla forte. KK, pigliati il Galaxy, sei buono, pigliati il Galaxy. Quello da io è nuovo, già ho visto anche le foto, è nuovo, La bella Dio. Secondo me come il Galaxy ce ne sono pochi, anzi forse il Galaxy è il secondo dopo il DAC. Te l'ho detto, io ci metterei anche il Shimba in mezzo già. È bello, hai santo, è bello il Shimba, bello massiccio, è bello, bello, bello, bello, se lo vedi dal vivo è molto bello, a me piace un bel. Ma io ho sempre detto, per il funzionamento, per l'estetica e per tutto il Galaxy, per me lascia perdere il DAC che è una radio americana che è difficile da trovare eccetera, ma il Galaxy si trova, quindi è la numero uno dei baracchini base CB, per me, lui, per quello che dicono gli altri, è un barragione qui e là, però è così, e allora più barragione di un DAC. Poi si possono fare diverse modifiche, puoi mettere anche la scheda dei 40-20, mi lo sai nel Galaxy. E io l'avevo comprato uno con la scheda, però poi l'ho rivenduto. C'era una scheda dei 40-20, l'ho comprato su internet, con la scheda già piazzata. Aveva modifiche di radio, di tutto. In più avevo questa scheda, però l'ho venduto. Perché faceva quel rumore e poi mi sono pentito perché bastava metterci l'alimentatore esterno e bastava quello. E vabbè, là. Comunque il Galaxy per me è la mia chicca piperita. Per me il mio consiglio è prenderti quello, poi secondo loro ti prendi Simba. Quasi quasi, ti do ragione. No, io ne ho avuto due, mi pare, due o tre, se mi ricordo. Uno l'avevo venduto a Nino, a quello a Nino di Ozieri, l'altro l'avevo venduto a Porto Torres, e un altro mi ricordo a chi l'ho fatto. Vanno molto bene, però allora non avevo spazio, nel senso che la parte c'è, la parte amatoriale, con questa altra, che c'è un'altra base, io sui massarra da piazzare, uguale a questa, volendo ce ne stanno di radio, elimino quella che ho e aggiungo l'altra, non è un problema, però sto bene così, già ce n'è posto, già va bene, da 2,10 questa per 90, già va bene, la voglia sollevare piano. KK, sì, Dani, ho visto la G20. Ma è Luca, Flipper. Ah, guardati quelle foto di quel portatile. Ci sentiamo. Ciao a tutti. Ciao Dani, ci sentiamo, buona serata. Ciao Dani, buona serata, buon tutto, dai. Poi già ci sentiamo via WhatsApp per quella roba là. Ok, ciao, buona giornata, buon fine domenica, ciao. Caro blocca, la questione poi te lo frega. Raga, Danilo, oggi ho mandato un messaggio, non c'è problema. Danilo non è di quelli che... Già lo conosco, già lo conosco. Non problema. Va. Andare, comunque è deciso? Sì, tutti e due è meglio, ci abbia il culo. Ma dai la priorità al Galaxy, dai, poi viene l'altro, che secondo me in ordine di bellezza il Galaxy viene in prima. È bello anche l'altro, niente da dire, però diciamo che il Galaxy si adegua più agli apparati di adesso anche, capito? Non si vede che è un vintage. No, esteticamente no. Sopra il coso ci sta, sopra il DAC, non il composto, se no devono spostare nuovamente tutto e mettere il ripiano. Però ricordati, sotto che piano ci sta, sotto posso mettere tutte quelle, però non le vedi bene, capito? Così sono bene l'esposizione, tutto in uso, ognuno il suo microfono. E adesso vediamo. Adesso vediamo di fare qualche altro acquisto. Poi io non ne ho più sovrapposte, c'è una radio. E così vanno bene, non mi piacevano tutte una sopra l'altra, no? Infatti 48 l'ho venduto perché era sopra l'altra, non mi andava bene. Come si chiama, le 69 c'erano nell'armadio perché lo uso per la macchina e quindi già va bene così. Ce l'ho tutte quante perfette adesso, tutte un impiano, una radio. Tutte in linea le ho messe io già, tutte in linea, lungo tutta la base. E ancora stringendo ce ne sta anche qualche un'altra. E ho anche una alimentazione importante! Adesso vediamo. C'è attaccare qualche cosa, qualche altro apparecchio, poi non lo so. Ce l'ho libero, c'è una stazione ma non c'è attaccato nulla. C'è Antonio Bucci, cosa hai detto a tu? Ah, sto scherzando, ho detto metto la portante! Metti. Ah, sto scherzando. E adesso ne approfitti perché sto facendo con tre fatte, parato malogatto, e questo qui è il Cobra, non so se ti piaccia, con l'M93. Quello che ho restaurato io, che ho tolto tutti i tasti gialli, li ho fatti neri, cambiata la capsula, adesso già va bene. Anch'io sto scendo, con quante watt stai scendo tanto? Ah, 5 watt gli altri ha preso. E si è attaccato, io lo voglio segnare. Teresa per manettone. Ah, è il mio standard quasi questo, dai. E per farti sentire tutte le parti, dai. No, è perché mi piace proprio così. Io sono fatto altre 2 metri d'antenna. Peccato, fai che la sollevo un po' di più e via. Che non ti si sciolga l'antenna. A me? Ce ne vuole qua per scioglierla, non ti preoccupare. Magari ti scioglie prima la tua che la mia, non ti preoccupare. Ma la mia tiene 600 watt, caro mio. La mia ne tiene una. Tiro fa. E tiene, non ti preoccupare. Ma però c'è il cavo che non va bene. Arrigano i nonni a invece non va bene. Cosa, il cavo? Ah, il cavo, vabbè, il cavo. Però con mezzo chilo la fatta già lo tiene, non ti preoccupare. Vabbè, fermo la prova allora. Facciamo la prova, ah. No, ma non mi interessa, ma lo standard è così, tipo cosa ne so, utilizzare così, un po' di batte, ma è così, molte volte quando esco col 5.50 è normale, ma di solito io esco sempre così, di solito. È sacro, sì. E vabbè, non mi fa niente. Metti la portante, Anton. 9.25 sì, dai. Io quando ti arrivo con 3.5, Claudio. Quanto è il suo segnale? Aspetta, si attacca. C'è 9.25 liscio con questo baracchino, e lui è 9.25 agganciato. Adesso sono agganciato, guarda quanto sta arrivando, 1, 2, 3. Lo bacio. No, non lo passi a tu. Agganciato sì, sul 3, sullo 0 del 3. Schiappa, no, ehi va, 4 watt ti do, dai. Accontentato, com'è? 9.10 abbondante, 9.15 dai. Vai da 9.15 a 9.25. Ma tu neanche se non è attaccato va bene. Ma per aiuto me li voti. Vabbè, io lo tengo sempre, giusto per farlo andare, a chi va giù freddo? Ah, vai freddo, quindi direi mezzo anche o lineare. Io me lo metto anche in mezzo, appoggio un pochettino il solere e me lo scaldo. Ma già sto andando con 8 watt, guarda, minimo sono 9.30 da Gianni con l'altezza che ho dall'antenna. Sì, c'è 9.30 da me. E cosa serve? Non serve a niente. Prova a parlare a tua, vedere se mi passi del tutto da Gianni. Prova. Claudio, ti passa però è un po' distorto. Beh, è chiaro, grazie. Con la potenza che ha è normale, siete vicini, ma io sono con l'altro lato. Se attacco lo anniento. E proviamo a fare una cosa, attendo il 550 che ha la stessa guardia e la stessa potenza tua, va. Facciamo così. Otto watt c'è quella? Più o meno sì, dai. Più su per giù, dai. Aspetta che l'attacco. Voglio vedere se anche, vabbè, perché io sono distante, voglio vedere se a parità di potenza passo io o passi tu. Le gare state facendo, di nuovo le gare stanno cominciando qua. No, è giusto così per capire, per capito, perché lui è molto vicino a te, io sono molto più distante, però sono molto più alto. Potersi essendo molto più alto, a parità di potenza passo io a te. Ecco qua, adesso siamo all'affari. Prova a vedere se mi sono spossa. Ora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, Antonio non si sente proprio più. Sicuro che sei scendi con le vattiuse. Te lo giuro, questo è l'Inuit 294. Ti posso la foto, se hai un lineare, no, che non ve ne è lineare. Questa c'ha 8 watt e modulati ne ha 12. Modulati, ma non penso che siano quei 2-3 watt in più. Questo qua più o meno, dai, è così. Kappa, com'è già? Già va bene, ma diciamo che ti ha proprio coperto e non si sentiva la tua voce per niente, si sentiva solo lui e basta. Vabbè, comunque, no, non intendo di sigari, già vai bene lo stesso. Purtroppo sono con 30 rubusso, cosa cazzo devo fare? Ciao, no, ma non è questione di gare, è giusto per capire a parità di potenza, siccome io sono più distante da te già, e lui è molto più vicino, è proprio un problema, io con Antonio ne ho già parlato, è un problema di radiazione d'antenna, capito, di posizione, essendo anche più lontano, io avendo la posizione più aperta, più alto, chiaro, a parità di potenza prevale. Ciao Califfo, Santiago 9 più 10 arrivi. Ciao Claudio, 9:30 qua. La mappa che ti ne pare, non che sia a fondo scala, sì. Come sei a casa tua? A casa sono. Come le ricevi tu? A casa con la 10, sì. Di poco. Qua mi segna di più, passati là. 2-3-0, va. Ti va fra. E allora, però questa a me arrivi forte, per quello è. A me arrivi molto forte, arrivi. Dove l'ha messa? Sul tetto? Come ce l'hai sul tetto? Qual è quella logo periodica? Tutti e due inventi, Sei sicuro, sì. Sei sicuro che l'hai pensato da Claudio? Ho capito. Andare, va meglio con questa che con l'antenna che c'hai. Ma questa c'è anche le tariffe, questa qua la posso mangiare e accorciare. Cavolo, qua sei fortissimo, sei. Ma sei sicuro che l'hai pensato da Claudio? Forse è puntata pure da me, cosa? Non è puntato solo da Ettore. Gaggio. lo io già. Sapete chi è questo, sì? Sapete chi è, sì? Passa a tutti, a Claudio, anche a Luca, a tutti quanti. Non so se io riesco a passarlo, però... Adesso vediamo un po', allo basso, allo basso. Hai capito chi è già? No, non so perché fa così da tanto, già ieri me l'hanno controllato, vabbè. Ah, domani compare giù le batterie, esco. Se ti bizzi che è giù, cioè la devi finire, la devi finire, se ti pizzi cuglio, Brecco. Avanti. Ciao Fabrizio, si può avere un controllo? Ma qua c'è a fondo scala. Importante Fabi. Ma lo sai cosa bisogna fare? Bisogna raccogliere le firme e andare allo scopposto e denunciarlo. Molto ci vuole. Che capo, Importante. Ma di via grazie. Sentiamo anche lì. Dimmi Fabri, prova a vedere un attimo, ma cosa stai provando, una radio? Sì, una cosa veloce. Stai innescando un pochettino, stai innescando. Perché c'è alcune cose qua, ventole. Ah, c'è le ventole. Comunque qua c'è a fondo scala, c'è una bomba, sì. Fabrizio, buonasera. Buonasera. Qua c'è 9.30, vabbè, col baracchino, Roger, vabbè. Aspetta, Alla Fabri. Aspetta, detto. No, sono tornato normale, dai. Va bene, va bene. È chiaro, adesso sì. Allora, Gianni la passa. Vabbè, io non ho problemi. La passi anche qua, già. 9.45, quindi Claudio non ha problemi. Ma io non ho nessun tipo di problema, vero? Sono queste portate, blu blu. Cosa vuoi fare? Ma Claudio, lo passo io da te. Quasi. Senti un rumoraccio sotto. Passa Gianni, Fabrizio. A te ti sento sotto. Che capa, no, da Fabrizio non c'è nessun tipo di problema. Sì, tu lo passi senza problemi, Aspetta che ammazzo, tanto non c'è bisogno. Aspetta che è un po' alto. Aspetta, scusa, E come vuole fare? Non dovrei passare. Eccoci qua. Che è questo gaggio, che è questo gaggio. E comunque è 9.20 qua, Qua è 9, quasi 9.25, dai. 9.20 è lo stesso, è sempre lo stesso segnale. Ogni tanto si affaccia, non ho capito perché. Qua è 9.30, qua è 9.30 e oltre. Era bombardo. Allora dice la casa tua, l'ha rilevata Gianfranco, non so con che cosa, dice che è nella zona alta del monte. Gianni? Sì, deve essere in zona, perché ieri c'era anche Bruno ed era lì a San Francesco e ha detto che gli arrivava a fondo scala. Se c'era Bruno lì doveva togliere il PR e la fama a picche. Arrivava a fondo scala da lì, capito? Quindi confermo la mia diagnosi, perlomeno, non la mia diagnosi, quella che ha detto Gianfranco, vabbè. Evidentemente noi siamo simpatici, già voi ti richiamo, faccia un lascio, fate il becci. Cosa stai usando, Fabri? È il solito mio. Vabbè, io sto ascoltando con l'Inuit, sono col baracchino, ma arrivi benissimo. Cioè, tu uso solo questo, non è che... Nell'altro paio, ma li devo anche accendere, prima o poi li accendo. Va bene. Ottimo per la truppa. Avanti, bomboli, riprendi. Cappa, mamma mia, io. Allora, raga, va un poco. Aspettiamo un pochettino di tempo e poi mi busco il B500, poi voglio vedere se mi buono con l'abortante. Sì, vabbè, ma cosa vai? Anche se passi e poi te la metto alla ricezione, il discorso è sempre quello, tu. È fastidioso il batto. Vabbè, dai, io mi preparo, mi ascolto altre due stracci di partita che ho abbassato il volume. Buon proseguo a tutti, buon fine domenica, tanto mi sa che è arrivata l'ora dei provvisini, sono già le 7:30, Ciao Fabrizio, Gianni, Antonio, Luca, Danilo, vabbè, un po' un saluto circolare a tutti, dai, ciao ciao. Ciao, ciao, ciao Claudio, ci sentiamo, dai, buona passeggiata, tanto non si può usare oggi. Ciao Claudio. Ciao a tutti, dai. Bene, sta andando col portatile. Bombo? Canonata c'è qua. Tu col portatile c'è, Fabri. No, ti ho detto che sta andando bene col portatile. Una canonata, Va bene, allora va bene. Io comunque già ti arrivo bene, sicuramente non dovrei avere problemi, dai. Sì, ma tu non hai problemi neanche col CB, non hai problemi. Cioè, vuoi arrivare a fondo scala, proprio, sei il più forte di tutti qua. Ma poi io sono aperto in quella zona, Ma tu dove abiti esattamente? Che arrivi 9.30 anche tu? Sono lì via Santa Apollinare. Santa Apollinare, sì, forse ho capito, forse ho visto anche l'antenna. Sì, a Santa Apollinare, ricordami più o meno dove è al centro storico. Aspetta che te lo dico al telefono. No, vabbè, dai, più o meno, tanto l'antenna già si vede. Diciamo, perché lì ne ho visto una sicuramente, adesso non so se è la via, ma sarà quella, non penso che ce ne siano parecchie al centro storico. Capa, ma l'hai vista là sul tetto? Boh, un po' di tempo fa, forse sì. No, ma io ci abito da poco, ci sono 4 mesi. Boh, babbo, comunque già arrivi bene. Io non credo che arrivo bene. Guarda, ti do un indizio, se sai dove c'è il panificio toscano, lo sai dove è? Il panificio toscano. Allora già ho capito, sì, già è lei allora, forse. E la Ringo c'è a piazzata. Ma io mi ricordo, ho visto qualcosa passando con qualche mostro lì, facendo un giro, può essere, dice, sì, un oltre largo, già deve essere quello. Se tu avrai visto quell'altra che c'è nell'altra via. Può essere, che quella più corta, quella via giù alla chiesa. Sì. Forse una lì sempre, non è vero. Scappa, allora, la mia antenna, non so dove la vedi. La vedi dove c'è la palestra lì? Scendendo via Fermeria San Pietro lì. Più o meno ho capito, però più o meno ho capito. È una palestra, c'è quello che vende le macchine da... Le macchine di coso, come capo si chiama, da negozio lì, l'Olivetti, che poi c'è un prieto, in chi lo padrona. La vedi da lì, la vedi, che c'è una specie di coso, c'è un circo, una piazzetta lì, la vedi da lì. Più o meno ho capito, la prossima volta che ci passo ci do un'occhiata. Ma, lì, come scendi lì nella discesa, per la 10, da lì si vede bene la mia penna. Eia, allora già do un'occhiata. Ma, rimasto. È lì, poche parole. Ah, che è rimasto dei superstiti? Allora il caffè è pronto. Allora giocare, sono sdraiato, mi sto rilassando un po', dai. E oggi ho dovuto fare tutto in fretta, mi sono accorto troppo tardi che capo dovevo tornare a casa, era già 1:30, ho dovuto fare proprio tutto veloce, vabbè. E quindi mi sono un po' rilassato adesso, va. Fabrizio, deve essere facendo qualcosa, dai, riprendi anche tu. A casa tua. E si è alzato un pratico qua, perché quel tubicino si buca, capito, in gomma dentro. A me una volta mi ha allagato la casa di notte. E ce l'ho fatta tu? Oh yeah. un casino, perché queste tubazioni qui dice che vanno cambiate ogni 6 mesi, questi flessibili dovrebbero essere cambiati ogni 6 mesi, così mi metto l'idraulico. Ma dentro sono sempre in gomma magari, gomma, ma io non mi sono mai ricordato che si sia rotto un flessibile a casa e mi via 50 anni, non si è mai sfasciato un flessibile, né tubazioni, nulla, era proprio la cosa, vabbè, era più grezza ma durava di più. I raccordi nottone sono buone. E rimanevano dettari, righisci dettari, non si muovevano, erano belli di sì. Io non si sono mai, che mi ricordi io non se ne è mai rotto uno. A me già 2 volte mi si è allagata la casa più flessibile, la bagaglia, ma una notte è allagato tutto il portone, tutto quanto. Mi hanno suonato il campanello, ho detto rimuttando, ho già messo i buddanti. Sta allagando tutto il palazzo, cioè me ne sono accorto adesso, io ero addormentato come eravate addormentati voi. A noi una volta ci è successo un casino dentro casa, mamma mia, come si è proprio scoppiato, però c'era più di 20 anni quel flessibile. No, io già c'ho i fusi, c'ho il rubinetto d'arresto a tutte le parti, oltre vabbè il contatto lì giù che io posso aprire e chiuderlo. Anche io. Una volta all'anno vorrebbero cambiarsi questi cazzi flessibili almeno. Ogni 6 mesi no, ma una volta all'anno sì. Scendeva dentro il water, non mi ha allagato la casa. Però cambiati una volta all'anno il flessibile. Ogni 6 mesi mi ha detto l'idraulico a me. Vabbè, non è che ripeto già mai un esempio, però se si cambia una volta all'anno non succede niente. E mi devo pure appicciare tutti i flessibili una volta all'anno, ma anche 6 mesi una volta all'anno è troppo. Dovrebbero durare di più, è che sono di gomma, la gomma che c'è dentro si spacca. Appa, come te li pensi vedere i bambole? Che c'è economici, ti durano il bambo. E c'ho quella pompa, la pompa con la scaletta. Vabbè, ma molti che hanno le centraline devono avere il flessibile. Però per i giochi costano 25 euro uno, che si non si barrano, che si durano anni. Il gas è ancora peggio dell'acqua. Poca confidenza con l'acqua e fuoco, bisogna avere confidenza di Davide lì. Appa, una bomba, sì. Si sente va, va, va, va. Oh, va benissimo, wow. Va benissimo, ma non bene, no, benissimo proprio. Hai cambiato la capsula sulla tra. Sì, già. Ho messo un'altra capsula, e come l'ho fatto io? Come l'avevo modificato io? Che io gli ho messo il cortone a posto di questo. Hola, ma così muove, gà. È stazionaria. Quello di radio è una bomba. prova tu a Sarro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Gianni, mi ascolti? Ma che Lecco c'ha? Però glielo posso eliminare Lecco, Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eia, ma che apparato stai usando? Questo è un S9 della Magna. Ho capito. Io c'ho il 980, quello che è uscito dopo. Gappa. Questo lo voleva il primo, ma... Non adesso che non lo voleva. Questo lo voleva il terzo, non ci ha fatto lo soltanto, capito? Forse perché questo non prende il culo, ma... Qualcosa, il 68, io ce ne scampi di più. Se ti sei su 10, io su 5 ti sei. Mamma mia! Ho modificato per quello, perché prendevo un medisplatter. E me ne metterò un altro modificato magari, però che non prenda splatter, capito? Un apparecchio che non prenda splatter. Il 48 prendeva tutti splatter, era bello, amico, come era fatto, era tutto blu, manopoli blu, c'aveva, era stilizzato, eccetera, eccetera. Era, era in più, non lo usavo mai perché prendeva splatter, se l'accendevi c'era gente su 23 la sentivi. Avanti Fabrizio. Cavolo, è una cannonata, Pizzo, cioè. Anche questo qua è molto selettivo come apparecchio, tutte e tre quelli che ho non hanno provato, siamo con 48, no, che piglio tanti di chi si goe perché non ne comprendo nulla. Già, io ne ho uno fra le mani, un ala 48, nuovo, modificato, scheda cosa, camicia sopra, batti e tutto, me lo devo regalare, 120, guarda. Dillo subito, se lo devi mettere in macchina, perché se lo devi mettere in camper ti puoi mettere quello, vedi? E quello lì esce già con watt in più degli altri. Te lo metti nel camper e quello là te lo vedi. Ma non me ne faccio niente, c'ho il 68 modificato già qua. Come ne fa? Ah, vabbè. Se non te ne fai nulla l'altro conto. Vabbè, ogni tanto il regalo si può fare, dai. Avanti, Antu, tu che regalo ti fai a Natale? No, non è meglio apparecchi, basta così. No, niente di che, me l'ho già fatto un regalo. Ah, è vero. È più importante quello. Gappa. No, vabbè, qualche regalino già me l'ho fatto. Mi sono comprato una luce bella, mi sono comprato di quelle per le... di quelle che si usano per le luci, dai. Le luci per l'impianto, va. Quelle blu? No, fanno tanti colori, fanno. Le mie sono blu per la notte. Come in nave, con le luci cortesia. No, io sono proprio luci da discoteca. Visto, sono tipo luci da discoteca. Come ce li ho alla cassa, non li so. No, una cosa. Aspetta. Però mi ho preso un proiettore potente. Aspetta che te lo mando un video. Un video, la capisci che era appena bronzino ero, quindi da prendere un po' grudoco. Aspetta, ti mando un video. Io lascia vedere. Cazzo, prendi sul cellulare. Fra, ci sei? Ehi, cazzo, sono con Ducchetti. Bravo, provo a cancellare un po' di roba. Lasciamo vedere. Ah, c'è la bronospera, mi sta girando gli yo-yo. Non mi vuole mandare video, non mi vuole mandare. Raga, mi sa che io vi saluto, dove porto il cane, che mi deve arrivare la pizza dopo, se no non mi trovano in casa. Dai, vi saluto tutti cordialmente, vi auguro una buona serata. Ciao Antonio, ciao a tutti gli altri amici che sono rimasti a lotta. A domani, ciao, ci risentiamo alle prossime, dai. Franco, ci sei? Ma che hanno una attacca.